possiamo andiamo, Alessandro. Dell'Africa, ai confini del mondo, confini senza barriere, studenti senza quartiere, viviamo qui, una terrazza sul mare, viviamo qui. Camicie bagnate, viviamo qui. Sentire nell'aria il sapore del sale, mangiare all'ombra del fico un'acqua sale o delle olive con il pane. Viviamo qui, una terrazza sul mare, viviamo qui. Mediterraneo. Thank you. Mediterraneo.